sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Un giorno ho deciso di fare una trasmissione bellissima, ho parlato del tango, ma semplicemente perché avevo conosciuto via Facebook delle ballerine di tango. Mi si è aperto un mondo che non sospettavo nemmeno che esistesse. Io sono della stirpe delle gambe chiodate, delle ginocchia di legno, dei piedi immobili. Io mai ballerò, ma sarò capace di ballare. Mai ho provato a ballare. Le volte che qualcuno ha tentato di istigarmi a farlo ha trovato soltanto ghiaccio, gelo e stridor di denti. Beh, invece io il 20 novembre 2008 feci un ricordo del tango e una chiamata alle armi di tutti i ballerini e ballerine di tango, e mi sono accorto che in Italia la milonga è una realtà molto percorsa. Le trasmissioni radiofoniche sono come gli esseri umani, sono connotate da impalpabili destini che meno loro prevedono. Quando iniziai questa nuova versione di Melog 2.0 e scelsi una musica. La musica è una musica dei Gotham Project, che è un gruppo parigino che canta in spagnolo, e Gotham Project è l'anagramma di tango, perché la musica è un tango e perché questa trasmissione è sempre stata incorniciata da un tango all'inizio, un tango alla fine, un tango ad ogni ripresa. Perché non me ne sono mai accorto, perché non ho mai dato particolarmente valore a questa cosa, perché faccio parte di quella fetta dell'umanità che quando sente musica si impietrisce, diventa di legno. Due cose nella vita non farò mai: cantare e ballare. Un amico mi sfotteva, mi diceva ti porterò in una discoteca con il karaoke, così dovrai fare entrambe le cose contemporaneamente. Mi viene il sudore freddo, non riesco a pensare il mio corpo che si muove al ritmo di musica. Eppure questa mattina voglio parlare di tango, non ne so assolutamente nulla, non mi sono nemmeno voluto documentare. Per ragioni del tutto casuali, in questa settimana sono incappato in alcune ballerine di tango. Cercavo persone per uno spettacolo teatrale, un po' tra Facebook, un po' tra Skype, sono entrato in contatto con delle signore che ballano, signore, ragazze, studentesse, casalinghe, insegnanti, professoresse. Mi sono accorto che una grandissima parte di umanità che ogni giorno incontro, che svolge normalissime occupazioni, balla il tango. Ho cercato in internet tango sulla città di Roma. Ho visto, ci sono decine di posti ogni giorno con gli appuntamenti, con gli orari, con i luoghi all'aperto, al chiuso, in dei locali, sotto i porticati, che si incontrano per ballare il tango. Io ho un'infarinatura piuttosto banale, iconografica sul tango. Penso alle musiche di Piazzolla, penso al tango argentino, penso a un'intervista che feci a Borges una quindicina di anni fa in un albergo di Via Veneto. Questo signore cieco che guardava verso l'infinito mi raccontava che ancora la capacità di stupirsi era il più grande sintomo di esistere che aveva, con la sua donna giapponese che camminava dietro. Ecco, questo per me era il tango. Invece il tango è qualcos'altro, al di là della versione iconografica, banale, è una pratica quotidiana. Come molte signore vanno a fare l'aerobica o il pilates, altri vanno a fare il tango. Ma il tango non è esattamente un'attività fisica, il tango è un'uscita dal mondo. Io sono appassionato di uscire dal mondo. Quindi 800240024, tutti coloro che questa mattina o vogliono sapere qualcosa su questa possibile uscita dal mondo o la praticano in segreto, di nascosto, perché un'uscita dal mondo molto pericolosa. Un detto inglese dice che il tango si balla in due, quindi il tango è un patto di complicità. È il momento in cui due corpi si toccano, sono appiccicati l'uno all'altro, si sentono le viscere palpitare l'uno quello dell'altro. Ma non è un abbraccio d'amore, è un abbraccio che terminerà e che è iniziato semplicemente con un semplice incrociarsi di sguardi. Terminato il ballo, termina l'abbraccio, i corpi si staccano e forse non si incontreranno nemmeno più. 3, 4. 1, 2, 3, 4. La mujer, en cambio, parte con la pierna derecha hacia el lado derecho. Cruza, pero hacia atrás, girando solamente con las caderas, no con el torso. Abre hacia el lado derecho y junta los pies. Lo repito. Abre hacia el lado derecho, cruza por detrás, abre hacia el lado derecho y cierra. Uno, dos, tres. Su YouTube ci sono un'infinità di file dove ci sono lezioni figurate di tango. E sentite anche nelle parole, per noi profani, per noi che non ne sappiamo nulla, per noi che sentono le ginocchia inchiodarsi soltanto al pensiero non tanto di abbracciare una donna, che ci piacerebbe, sarebbe un sogno, ma di abbracciarla e guidarla lungo questo cammino di perdizione totale che è il tango. La donna apre le gambe, le chiude, le incrocia, le riapre nuovamente, fa un passo indietro, tu devi andarle incontro. È qualcosa che non appartiene alla nostra capacità, alla nostra immaginazione, qualcosa che va oltre, eppure è qualcosa di facilissimo, perché è qualcosa che chiunque può fare. E mi ha detto una di queste praticanti del tango, dice, ma se tu sei un cioc umano, stai tranquillo perché ballare il tango sarebbe facilissimo per te. Ho portato a ballare ciocchi ben più pesanti di te. 80024 0024. Signor Verón? Sì? Parla inglese? Un poco. Habla español? Oh, muy poquito. On est à Paris, on parle français. Je voulais dire que vous avez la grâce d'un ange. Merci beaucoup. Ma c'è qualcosa di più. Concede, ma non troppo. Ecco, lei usa la sua presenza scenica come un attore in un film. Lei lavora nel cinema? Sì, lei dà lezioni di tango. Sì, sì. Sally Potter è la regista di Orlando, ha fatto un film molto curato, molto leccato, un film in bianco e nero, che è Lezioni di tango. Questo film che, guardato con l'occhio profano, se l'avessi guardato un mese fa mi avrei detto che noia, mi sarei fermato dopo 10 minuti. Ci sono due persone che ballano tango, ballano a Parigi, lo ballano a Buenos Aires, lo ballano in Inghilterra, lo ballano ovunque. E la regista, questa signora inglese, un po' legnosa, un po' mascolina, non a caso ha fatto il film, che un film Orlando, che parla di una persona che ha la doppia natura maschile e femminile e muta tranquillamente all'una all'altra natura, interpreta se stessa, un film lievemente narcisista, fa una regista che una volta a Parigi vede ballare Pablo Verón, che è uno dei più noti nomi di ballerini di tango, ne rimane affascinata, chiede a lui delle lezioni di tango, poi lo seguirà, andrà a Buenos Aires, inizierà con lui una sorta di amore non corrisposto probabilmente, perché il ballerino di tango è un ballerino e quindi non può provare per la donna che ha tra le braccia altro sentimento che quello del supporto carnale che a lui serve per esprimersi ballando. E questo lei non lo manda giù, ma in fondo questo film, che mi sembra che sia un po' la Bibbia dei ballerini e delle ballerine di tango, che lo ballano non professionalmente, o se lo ballano professionalmente è una delle tante attività che ogni giorno rende loro esseri umani simili a tanti altri, seguono questo film perché in fondo è l'irruzione più felice raccontata in un film del tango nella vita di una persona, o la scelta del tango come chiave per uscire dal mondo. Conosce questa canzone, si chiama Piénsalo bien. Parole interessanti. Pensa prima di fare il passo, perché una volta fatto non potrai più tornare indietro. Rifletti, perché ti ho tanto amato. Tu non mi hai voluto, forse perché ne amavi un altro. Sally Potter non sa cosa significa seguire un ballerino di tango, andare nei luoghi dove si balla il tango, significa mettersi a disposizione di chiunque, di qualunque uomo non la desideri, di comunque l'uomo voglia con lei ballare in quel momento, significa di vedere l'uomo che lei pensa che sia il suo cavaliere, in realtà lasciarsi andare al tango anche con altre donne. Quindi lei è fortemente combattuta da natura di donna liberata, di donna moderna, di donna piena di sovrastrutture, da questa sorta di animalesca e primordiale voglia di essere una donna che altro non è colei e che si lascia portare, si lascia guidare lungo un ballo. Cominciamo a sentire le persone che ci stanno chiamando, che abbiamo già chiamato per parlare di tango. Ho Nadia. Nadia è una ascoltatrice, è la prima persona che chiamo perché mi piace dare testimonianza del fatto che parlare di tango suscita e solleva comunque qualcosa che non normalmente nel quotidiano capita di avere come argomento e sollecitazione di discussione. Nadia, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ogni volta che sento parlare di tango, sento un tango, non posso fare a meno di pensare a mio papà. È morto 2 anni fa, aveva 84 anni, per cui una vita bellissima e felice, e la sua grande passione era il tango, era un ballerino molto bravo di tango ambrosiano, non professionale, cioè proprio andava nelle balere, nelle feste popolari, però lo conoscevano perché sapeva ballare molto bene il tango, era cercato dalle signore che amavano ballare il tango. E mio papà, nonostante il bypass al cuore eccetera eccetera, era spesso sgridato da noi, però era la sua passione. È quindi morto... lui sfidava la morte ogni volta che andava a ballare? Beh, non diciamo di no, perché comunque dopo il bypass gli avevano detto che poteva comunque continuare a ballare. Guardi, però... lei mi ha suscitato un ricordo personale, mi piace aggiungerlo alla sua esperienza. Una 15 d'anni fa tornai una sera nelle mie contrade, era un paese vicino a Perugia, una grande festa di paese, una grande piazza dove si ballava, e si ballava appunto, non so se il tango, si ballava un ballo simile, il mio essere profano non riesce a selezionare nel ricordo quale sia la musica. C'era una molto avvenente parrucchiera del posto che ballava con i signori affocati di passione del posto. A un certo punto cominciò a ballare con un signore sui 60 anni, rosso, rubizzo, un po' bevuto, esagerato con la porchetta, questo accade, e nel bel mezzo della festa lui cade per terra, stecchito, morto. La testa finisce improvvisamente e si spengono le musiche, un po' arriva la moglie, una donnettina grigia, triste, si mette lì, piange, lo coprono con un lenzuolo e tutti a casa. Ecco, mi è venuto in mente, non c'entrava niente. È successa la stessa cosa a mio papà, dopo 10 minuti che era iniziata la festa del centro degli anziani, si è sentito male ed è morto. Quindi è morto ballando suo padre? Sì. Morto felice? Alla fine di un tango, e tutti quelli che lo conoscevano bene hanno tutto detto, è morto felice. Io sono, diciamo che il mio grande rammarico è che quando ero una ragazzina non si usava più di tanto ballare liscio e non ho voluto imparare a ballare se non qualche passo così. Oggi ogni tanto mi dico devo fare un corso di tango perché è l'unico ballo che mi attira, forse anche perché ho questa sorta di discendenza e di ricordo così bello e così difficile anche. Grazie Nadia. Carla De Benedictis, buongiorno. Buongiorno. Carla è un'insegnante? Sì, sono un'insegnante e forse dovrei dire anche di tango. E, non so, non mi sento ancora pronta a dire che insegno tango, però in tutte queste cose che andate dicendo c'è una cosa che mi colpisce, è una sorta di destino che accomuna le persone che si avvicinano a questo ballo. Non è possibile sfuggire. Anche io prima di iniziare ho sempre rincorso l'idea di imparare. Da quanti anni pratichi il tango? Circa 4 anni. E poi un giorno fortunatamente ho incontrato una persona e nel discorso è venuto fuori che questa persona ballava il tango e niente, non ho potuto fare altro che dirle portami con te. Come Sally Potter con Varon? Sì, come vedi le storie si somigliano un po' tutte, sono tutte diverse perché fortunatamente al mondo siamo l'uno diverso dall'altro, ma sono tutte uguali in qualche cosa, c'è una forza che ti spinge verso il tango e tantissime storie poi che mi sono state raccontate somigliano alla mia anche in quest'altro fatto, e cioè che dopo che l'hai incontrato ti cambia la vita. Cambia te stesso perché, come tu dicevi prima, no? C'è un'uscita dal mondo, che è quella che tu rintracciavi nel film, però è per entrare in se stessi. È una cosa strana e straordinaria che poi accomuna tantissime persone. Quindi tu hai cominciato a ballare con quest'uomo? No, io ho cominciato a ballare sola. Ho incontrato una donna che ballava e che mi ha portato al tango. E poi dopo un anno ho incontrato... l'uomo che ha segnato poi il resto, altri 3 anni della mia vita fondamentali, e che purtroppo si sono interrotti per un certo verso e continuano per un altro, come vedi, perché lui mi ha lasciata perché purtroppo era molto malato, ma continua a vivere dentro di me, perché mi rincorrono le occasioni di tornare al tango, di continuare a portare avanti quello che lui mi ha insegnato. Senti Carla, so che per te questo è un ricordo personale, quindi con tutta la delicatezza lo trattiamo, visto che l'uomo con cui ballavi, l'uomo che per te era importante, non c'è più. E tu dici però questa cosa continua. Perché il tango, lo dice un profano, non ne so assolutamente nulla, ma per intuizione lo sento così fortemente legato al senso della morte, del tracio, della scomparsa. Allo stesso tempo è una speranza che questo abbraccio, queste carni che si toccano, che rimangono legate e quasi incollate per il tempo di un giro di ballo, poi possano quasi eternamente vivere nel ricordo di questo abbraccio che non sempre deve essere eterno. No, infatti è proprio così, è un abbraccio che diventa mentale, diventa unione totale, diventa uno in due in uno. Questo fatto dell'incontro e dell'essere così presente l'uno all'altro, poi è una grande scoperta anche per l'uomo moderno, volendo, perché chi si avvicina poi al tango magari fa una professione che non c'entra niente, per lo più sono professioni molto intellettuali, per cui l'astratto che continua a girarci intorno vorticosamente, però in qualche modo poi ha bisogno di ritrovarsi in una parte corporea del sé, e quindi ritrovare questo linguaggio che non è parlato, è un linguaggio vero però tra i due corpi. Senti, tu sei un insegnante, quindi hai una professione tranquilla, propriamente legata a apparenti desideri artistici, cioè non è che tu fai la ballerina di professione, eppure è questo filo indissolubile della tua vita che non si riesce a spezzare, anzi forse dà senso alla vita. Sì, esatto, che dà senso e dà senso a te stessa, a te stesso, a te stessa, cioè ci sono queste persone che stanno dentro il tango come se non potessero fare altro nella loro vita. Senti, insieme o da sole, ecco. È vero Carla che tu adesso balli nel ruolo di un uomo, perché in fondo balli come fosse il tuo uomo che balla al posto tuo? Sì, un po' perché fa parte della formazione della ballerina di tango. Io comunque con Maurizio ho anche fatto delle esibizioni, abbiamo lavorato anche diciamo in teatro, in locali, quindi avevo bisogno comunque di proseguire la mia formazione. E questa formazione è per tutte le ballerine di tango, anche in Argentina è così, anche ovunque nel mondo è così, perché poi ecco il tango c'è bisogno, bisogna dirla anche questa cosa, il tango è di tutto il mondo, è veramente una cosa universale. Quando si parla di tango argentino, diciamo che è una tautologia. Sì, questo ce ne stiamo accorgendo. Il tango è tango. Io sto parlando del tango, tu stai all'Aquila o a Vezzano, poi adesso parleranno altre persone, altre parti d'Italia. È un sentire universale che passa attraverso una musica. Il ballo benissimo in Giappone, per dirtene una. Quindi è normale il fatto che tu oggi faccia coppia con altre donne facendo la parte dell'uomo? Sì, è normale, fa parte della sensazione che l'uno e l'altro debbono avere, così come gli uomini ballano da donna. Non è strano, anzi, fa parte proprio dell'essere ballerino di tango, essere completo, essere l'uno e l'altro. Sì, infatti una delle ultime sequenze del film, Pablo Verón, quando prova, illudendosi che poi l'avrebbe portato Sally Potter a fare un film con i suoi amici, provano dei passi, li ballano fra uomini, normalmente, senza nessun tipo di malizia. Ho al telefono Mimmo Cerminara. Soltanto un saluto perché ci abbiamo fra un po' la pausa, poi parleremo lungamente con lei. Lei è un insegnante uomo, finalmente. Perché buongiorno. Buongiorno. Di tutto quello che abbiamo detto, cosa da dire in un minuto dal suo punto di vista? Cioè su questa universalità del tango, del fatto che in fondo serpeggi come musica, come essenza, come visione della vita anche alle nostre latitudini. Io credo il tango sia in ognuno di noi e bisogna semplicemente trovare un sentiero, un percorso per riuscire a tirarlo fuori. È un qualcosa che proprio ognuno di noi, compresi i ciocchi di cui parlava lei un attimo fa, riesce sicuramente a fare. Ecco, lei ci darà indicazioni preziose per ritrovare questo sentiero anche per noi ciocchi, e chi ci ascolta porti il suo contributo o di inconsapevolezza o di esperienza parlando di tango. Melog 2.0. Thank you. è tutto ciò che precede la nostra sigla, non l'avevo mai ascoltato nemmeno io, quindi anche io ho avuto sempre un tango che come una spada di Damocle, come una lama affilata, era pronto lì a stroncarmi la possibilità di essere razionale, quello che un po' dice questa mattina Chiara su Facebook, che dice: non avrei mai pensato di parlare di tango questa mattina, è un'occasione di dialogo con altri, è una via di canto, come appunto cita Chatwin, una maniera, una fuga, una maniera di uscire e un pretesto per uscire. Anche Monica mi dice che il tango è la sua grande passione, va su e giù da Buenos Aires, ha studiato con tutti i più grandi maestri del mondo, sta scrivendo un libro, girando un documentario sull'argomento, un argomento talmente profondo, un'emozione talmente forte che non riesce a parlarne su Facebook, e parla anche dei suoi sogni, ha un gruppo in cui si parla dei sogni. Ma un po' me lo spiego io, quello che sto capendo questa mattina, può essere una mia perversa intuizione, che il tango è meravigliosamente condiviso perché giustifica l'impudicizia, permette la pubblica rappresentazione della propria impudicizia davanti a tutti, palesemente, e la sigilla nel fatto che è fatto per ballare, ma in realtà non si fa per ballare, si fa per scappare dal mondo. Pablo! Dimentica completamente ogni idea preconcetta sulla forza della presenza scenica. Tu confondi forza e tensione. Sii calma per essere forte, sii lenta per essere rapida. Tutto il resto è leggenda. Bisogna dimenticare tutto. Nulla. Non devi fare niente quando balli. Solo seguire. Seguire! Se no blocchi la mia libertà di movimento. Distruggi la mia libertà. E non posso più ballare. Non posso ballare. Non posso più fare nulla. Pablo Verón tiene subito prende le distanze con Sally Potter dopo averla portata sul palco finalmente di fronte al pubblico per ballare. Lei non è stata all'altezza, chiaramente era legnosa, non era il suo ruolo, e lei pretendeva soprattutto attenzione. L'uomo che gli stava vicino gli dice: ma cosa vuoi da me? Cosa c'entra? Perché devo accorgermi di te quando io sono un ballerino? E tu, Pablo, ballavi e mi ignoravi, un solista. No. Sì, era come incontrare un estraneo sul palcoscenico, non ti trovavo più. Non eri con me, eri via, lontano, con loro. Con loro. Sento che ti ho perso. Dove sei? Io sono qui. Ah. Mimmo Cerminara, io l'ho presentata come un maestro di tango, ma mi scrivono molti, addirittura su Facebook: non hai detto che è uno dei più grandi ballerini italiani di tango? Chiedo scusa, ma questo fa parte della mia confessata ignoranza. Questo mi fa piacere. Allora, visto che lei è anche un grande ballerino, mi spieghi questo rapporto tra la legnosa regista inglese Sally Potter e Pablo Verón. Cosa voleva lei da quest'uomo e cosa lui non poteva darle come ballerino di tango? Allora, io credo che la cosa vada vista in questo senso. Nel ballo ci sono due ruoli, uno femminile e uno maschile, e quello maschile generalmente porta, guida. E se la donna non riesce a seguire, è difficile per l'uomo muoversi. Ci si muove in maniera sincrona, e questo fa sì che un minimo errore, un minimo sbaglio di peso possa causare un blocco del ballo. Quindi la donna necessariamente deve spogliarsi di un secolo di civilizzazione e di conquiste se vuole essere una ballerina di tango. Sì, sicuramente questo, e sicuramente il fatto che le nostre donne, parlo di delle europee e non solo, sono abituate ormai a guidare, a decidere, e questo le mette in una condizione un po' diversa, nel senso che nel tango devono essere portate. Allora Mimmo, saremo entrambi inchiodati per espressioni politicamente scorrette, ma il grande rovello, la grande incomunicabilità nell'atto amoroso, nell'atto fisico, deriva proprio da questo. L'uomo non sa più guidare, la donna non sa più seguire. Evidentemente la natura, in certi momenti ineffabili in cui si è a contatto con le radici più profonde della nostra essenza, questo chiede: che l'uomo guidi e la donna segue. È tanto scandaloso secondo lei? Assolutamente no. E a parte tutto, io sinceramente mi baso come filosofia sulle parole di una insegnante di tango argentina, alla quale dice: non importa chi faccia l'uomo, chi faccia la donna, l'importante è che ci sia un ruolo maschile e uno femminile. Infatti la sua collega che abbiamo sentito prima ha una maniera meravigliosa, secondo me inedita, di mantenere vivo il ricordo del suo uomo scomparso. Lei regala il suo corpo all'anima del suo maestro e uomo scomparso. Lei balla con altre donne, rinunciando naturalmente al proprio contatto fisico, regalando all'essenza del ballerino che non c'è più la possibilità di incarnarsi in un corpo e di provare ancora una volta quella sensazione di guidare una donna. Non so se questa mia interpretazione è forzata, lei come la vede? Io la vedo come lei ha dipinto, con delle parole, come dire, esattissime, ciò che Carla fa, che io conosco perfettamente, così come conoscevo Maurizio, e quindi non penso di poter aggiungere altro. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Lei è una ballerina, un'insegnante? Sono una ballerina da qualche anno, insegno anche tango argentino. Dove? Dalle parti di Modena. Benissimo. Nella zona di Modena e provincia, con il mio fidanzato che ha studiato tanto a Buenos Aires, abbiamo studiato tanto in Argentina. E no, il mio intervento era più dedicato a un discorso di equilibrio, perché non è ancora stato detto che una cosa molto importante, che se l'uomo guida muovendo solo le gambe, la donna non va. Cioè, la donna a Buenos Aires è una seguidora, nel senso che è quella, si dice seguidora perché segue l'uomo, ma la guida parte dal petto, e questo dice già tanto su un discorso di carne e di passione. Cioè, la guida nasce dal petto. Se l'uomo non dà questa spinta e non dissocia, muovendosi, roteandosi a destra e a sinistra, la donna non si può muovere assolutamente. Quindi il discorso che questa cosa, a parte il fatto che il tango è nato nei primi del Novecento a Buenos Aires, molti scrittori di testi di tango hanno tutti cognomi italiani, come Riccardo Tanturi, Osvaldo Pugliese e tanti altri. Sì, diciamo c'è un'essenza nazionale italiana nel tango. Sì, anche perché poi dopo qualche anno si è spostato in Europa. Anche Piazzolla, Parigi, mi sembra che avesse un padre o un nonno italiano. Sì, la maggior parte sono tutti di origini italiane, come poi del resto. Sì, però scusi, la storia uno se la va a trovare poi nei libri. A me mi interessa la sua esperienza. Lei ha parlato di corpo che deve dare il segno, cominciando appunto dal petto. Lei ha un fidanzato che è ballerino con lei. Lei ballerà anche con altri uomini. Il momento che si entra e si viene prese tra le braccia di un uomo, quel corpo diventa il corpo per eccellenza. Uno non si ricorda più di avere magari legami precedenti, futuri, posteriori. Cioè, il senso della gelosia tra due ballerini, come accade appunto nel film della Potter, è qualcosa fuori dal tempo, inutilizzabile in una coppia che balla il tango. Sì, escluse, fuori dal tempo, e non ci possono, non ci dovrebbero essere gelosie in questo senso, nel senso, io e il mio fidanzato nello specifico siamo molto liberi, perché sappiamo gestircela, sappiamo come vivercela. Certo è che in quel momento tutto si annulla, non esiste più niente, neanche più pensiero. In quel momento io sono dell'uomo che mi sta facendo ballare, l'uomo che mi sta facendo ballare è mio in quel momento. Cioè, si sente molto il discorso della carne, non so se mi spiego. Assolutamente. È una danza molto molto molto potente ed è molto bello, secondo me. A me piace, sono un po' antica, nel senso che mi piace mantenere il ruolo della donna che segue, con quest'uomo che spinge con il petto, che mi porta in avanti, mentre invece io la postura, l'asse, il baricentro è spostato in avanti, sia per l'uomo che per la donna, quindi c'è questo contrasto di petto che ci porta, lui mi vuole far andare indietro, io ci vado, però in un certo senso lo contraddico, perché in realtà vorrei scavalcarlo oltre, però lo aspetto, ed è molto carina questa cosa. In maniera leggera, se possibile, c'è anche un contatto e una sensazione sessuale proprio nel ballare il tango? Decisamente sì, spesso, sì. Quindi lei spesso avverte anche che l'uomo in quel momento è particolarmente desideroso di lei? Sì, a volte capita. Sì, capita, non a volte, anche abbastanza spesso. D'altronde si annulla tutto quello che è la vita, tutto quello che è il lavoro, quello che è al di fuori della milonga. La milonga è il locale di tango, oltre che un tipo di ballo, perché c'è il tango, il vals e la milonga. Si annulla tutto, ci sono dei momenti che veramente quando si scende dalla pista, non so come dire, verrebbe voglia di continuare in un certo senso. Poi chiaramente si razionalizza, si va a bere un drink, si fa una chiacchiera, eccetera, però ci sono dei momenti che sono veramente molto forti. Quindi mi sembra che in un certo senso sessuali. In conclusione, grazie Silvia di averlo detto con franchezza, perché molte volte certe cose rimangono tra le righe. Quando si balla il tango si mima un atto fisico profondo, e il fisico naturalmente, e se le persone sono consapevoli, si lasciano andare e abbandonano i condizionamenti, naturalmente quando tiene abbracciata una persona che non chiede altro che di essere abbracciata, il fisico dà le sue reazioni. Abbiamo visto che quindi il tango è radicalmente, profondamente, sentitamente una vera e propria uscita dal mondo. Mi sta scrivendo su Facebook Francesca e mi dice: Nicoletti, il tango non è solo ballo e corporeità, se non pensiero, sentimento, nostalgia, uno struggimento. Diceva Borges che il tango è un pensiero triste che si balla. Io ho il marito argentino che non balla, e tuttavia il tango lo si conosce non solo attraverso il ballo, ma anche attraverso una riflessione culturale e una comunione mentale. Senz'altro prendo atto di questa cosa, ma in questo momento stiamo parlando dell'aspetto corporale. Non vedo perché bisogna sempre giustificarsi che esistano sentimenti, approfondimenti culturali, perché si deve sempre rendere celebrale qualcosa in questo momento, senz'altro che il trionfo della carnalità allo stato puro, concessa, ammessa, circoscritta nel cerchio del luogo in cui si balla il tango. Abbiamo capito che anche in Italia, non semplicemente come contributo e celebrazione iconografica alla storia, all'Argentina, tutto ciò che è letteratura, che è musica, che è immagine cinematografica, molte persone scelgono questa personalissima, profonda e intensa uscita dal mondo. Matteo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei ha visto trasfigurare una sua amica ballando il tango. Sì, io ho un'amica che è veramente brutta. Mi dica un difetto, questa ce l'ha. Mia moglie è perfida come tutte le donne e dice che questa dovrebbe andare in giro con un sacchetto in testa. Però quando si mette a ballare il tango, secondo me è divina, è inarrivabile, inaccessibile, il suo profumo di estrogeni le spunterà qualche paio di ovaie in più, è stupenda. Questo è il mio pensiero. In sottofondo sento sta scannando un bambino, sì, che è a casa con me, che sta poco bene. Sì, ma non lo chiuda a chiave dentro lo stanzino perché è disperato. In braccio, sì, povera Stella, perché lei sta parlando dei feromoni e delle ovaie suppettive che nascono alla sua amica quando balla il tango. Lui giustamente forse dovrebbe dargli la pappa, provveda a suo figlio e non pensi troppo all'amica pluriovarica in questo momento, perché ho atteso 10 minuti per sì, no, ha ragione, no, c'ha ragione, a colpa nostra, però volevamo farla entrare. È molto interessante questa cosa. Quindi sua moglie, che dice che la sua amica, visto che il bambino si è placato adesso, è al di là di ogni tentazione, se la vedesse mai ballare comincerebbe magari ad alzare le antenne? No, scusi, puoi ripetere la domanda? Sì, la domanda è che se sua moglie la vede attizzato di fronte all'amica racchia quando balla il tango, non è che ha qualcosa da dire? No, ma io sono è come vedere la Madonna, no? Cioè, l'ammiro, ma non posso neanche pensare di sfiorarla. È una divinità che va diciamo che resta lì. Una visione dolce stilnovistica alla Gabriele Rossetti, è la donna che è talmente sublime, angelicata e inarrivabile quando balla il tango che non ci si può avvicinare. Leandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è argentino? Sì. Oh, finalmente un argentino. Niente, sentendo la trasmissione veniva in mente. Da molto piccolo mia mamma andavamo a una penna, la penna nei paesini sono quei luoghi dove si canta il folklore, il tango, si balla. Esattamente di dove è? Chacabuco, provincia di Buenos Aires, la Pampa argentina, diciamo, 500 chilometri dal mare e 500 dalla prima collina. E niente, da piccolo ci ha fatto capire questo ballo molto sensuale, molto nostalgico, che ogni volta che torno io ci devo proprio andarlo, anche se lo ballo adesso non molto, però quando ci torno vado a sentirlo o vederlo ballare, perché è quello che diceva l'ascoltatore prima, anche la donna più brutta diventa la più sensuale. In fondo è un grande ammortizzatore sociale ed emotivo, dà spazio a tutti, su un piano di assoluta liberazione del proprio corpo non esiste più una circostanza fisica che ci limiti. C'è spazio per tutti. Sì, ma è tale il caso che il tango nasce a Buenos Aires come profonda nostalgia nei quartieri della Boca, di San Telmo, dove adesso è diventato anche una questione un po' commerciale, non si fa più il tango dove il corpo veniva, adesso è più di tutto un balletto. Lei come lo vede ballare in Italia? Poi la saluto. Per me è diventato, non riesco ad andarlo a vedere, neanche andare a scuola, perché lo vedo come se fosse un balletto, non lo vedo quel tango de ballera, anche perché si sono perse queste ballera anche in Buenos Aires, che ci vado, se balla in le piazze, ma se balla solo per i turisti. E beh, anche una volta qua attorno dove sto io parlando, caro signore, era tutta campagna, adesso non è più così. Adesso al telefono Irene Catania. Irene Catania è una giovane ballerina, praticante di tango e quasi ingegnere. Irene, buongiorno. Buongiorno. Ecco, cosa dici di quello che ha detto l'argentino, che in Italia gli sembra tutta una balera e non sente più il senso del suo tango argentino? A me mi sembra di aver avuto, in conclusione di questa trasmissione, l'impressione che poi esiste un senso assoluto del tango, poi ognuno può raccontarlo e descriverlo come meglio vuole, secondo la sua esperienza. Beh, guarda, il discorso che fa l'argentino probabilmente è vero, perché lui forse più di chiunque altro ha potuto vedere il tango, cioè dove è nato, nei posti. Però ecco, io diciamo che non credo che si sia completamente persa questo discorso del sentire il tango, di praticarlo, perché comunque per quello che posso dire io, anche noi cerchiamo continuamente spazi, posti per andare a ballare, ci riuniamo. Tu ogni tanto fuggi con qualche amica tua e vai a ballare il tango. Cosa succede quando vai a ballare? Succede che io fuggo e diciamo che scappo, parto la sera tipo alle 8 e andiamo a Roma, perché io sto all'Aquila, quindi Roma è il luogo più vicino dove ci sono le milonghe, e ci troviamo in questi luoghi sconosciuti ai più, che si trovano di solito nei sobborghi romani. Entriamo in queste milonghe per 4-5 ore, scappiamo dal mondo, cioè ci troviamo in una parte parallela dove si trova gente, anche argentini comunque, che si trovano a Roma. Persone come voi ballate con sconosciuti, sì, che vi scambiano occhiate, vi desiderano con gli occhi, e poi ritornate a casa vostra e finisce tutto lì. Finisce tutto e si ricomincia, cioè è soltanto quelle 4-5 ore che ti danno il senso di questa fuga, diciamo, dal mondo. Il discorso che io vorrei fare un attimo è che questo ballo purtroppo è visto sempre come qualcosa destinato a un'età avanzata. Infatti io comunque ho 26 anni e mi trovo comunque, quando entro in queste milonghe, gente che va dai, diciamo, dai 40 in su, c'è poca gente giovane. Quindi il mio, cioè quello che vorrei dire è che non è assolutamente un ballo per persone di una certa età. Però mi sembra chiaro, Irene, fatto tu sia giovane, lo pratichi, un ballo che annulla anche il pregiudizio estetico, figurati il pregiudizio legato all'età. E abbiamo proprio in conclusione, l'ultimo istante, Fabiola. Fabiola ha una storia d'amore conclusa poi con un lecito matrimonio, nata proprio ballando il tango. In realtà il matrimonio non è lecito, ho detto siamo quasi sposati, ma non siamo sposati, però come, vabbè, se lo fossimo, nel senso che viviamo insieme. Beh, avete fatto due figli, scusate. Abbiamo fatto due bambini, però. Beh, mi sentite in una condizione illecita, scusatemi. Poi... No, assolutamente, però per precisare non è che siamo sposati, in effetti. Sì, vabbè, siete una coppia a tutti gli effetti. Sì, siamo una coppia a tutti gli effetti. Lecito nel senso non è che scappate via cercando abbracci altrove, ballate tango, ma avete anche, ballando tango e tenendovi stretti, fatto due figli. Sì, essendoci, diciamo, conosciuti, come dicevo prima, in una specie di universo parallelo che effettivamente era al di fuori della nostra realtà, nel senso che poi proveniamo da città diverse. Io sono di Perugia e Marco è di Genova, noi ci siamo conosciuti in Toscana, e ci siamo ritrovati in altri luoghi ballando, perché poi questo spesso succede, il fatto di viaggiare per ballare. Quindi non ci si accontenta di ballare. Dove avete ancora tempo di ballare o i figli ormai vi assorbono? Lui più di me, in questo momento i bambini sono un po' piccoli. E lei sta tranquilla? E lei è tranquilla? Io sono tranquilla, innanzitutto perché se Marco balla qui dove abito io, conosco tutti. Va bene, abbiamo concluso. Non c'è più spazio per il tango, non c'è più spazio per l'uscita dal mondo, c'è soltanto spazio per tornare alla vita. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111.